24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Possiamo continuare a vivere in un paese dignitoso, una terra indipendente, e non una colonia Yankee. Dobbiamo salvare il nostro paese. Dobbiamo salvare la rivoluzione. Dobbiamo salvare il socialismo. Erano le parole di Fidel Castro in uno degli ultimi discorsi pubblici. Oggi la situazione si è rovesciata. Raul Castro e Barack Obama si sono incontrati, stretti la mano. La storia di Cuba forse sta per cambiare, anzi senza forse. Gianni Minà, giornalista, grande conoscitore dell'America Latina, storico intervistatore di Fidel Castro. Ecco Gianni, ci poteva essere un'apertura di Raul Castro così senza un accordo, senza l'accordo di Fidel? Intanto ciao. Ciao, no, non ci poteva essere, questo è assolutamente sicuro quello che ti dico. Certamente l'influenza di Fidel non è più quella di una volta, ha 88 anni ed è da 7 anni fuori dalla politica. Sì. Ecco, ma al momento dell'annuncio Raul Castro e Obama hanno ringraziato contemporaneamente Papa Francesco. Ecco, vuol dire che con il Papa argentino si è aperto un nuovo capitolo in America Latina per gli Stati Uniti? Credo di sì, loro ci dovranno fare i conti con Papa Francesco. Ricordati che 2 anni fa Papa Francesco ha riunito 200.000 persone a San Pietro contro la guerra. Non c'è nessun capo di Stato al mondo che avrebbe fatto questo, che certamente non è qualcosa che entusiasmava gli Stati Uniti. Che stavano per bombardare, infatti. Sì, il che vuol dire che tutto il panorama si apre, non solo il panorama delle trattative dei rapporti Cuba-Stati Uniti. Devo dire che Raul Castro, che veniva sempre indicato come il fratello minore, insomma, ma un po' dispregiativo, sì. Eppure aveva fatto 40 anni il ministro della difesa in un paese bloccato da un embargo, e quindi non doveva essere tanto scarso. No. E qui ha dato prova di un grande realismo. Ecco, bravo. Un sondaggio pubblicato sul Corriere della Sera dice che Obama a L'Avana oggi è più popolare di Raul Castro. È possibile? Queste cose nascono sempre a Miami. Fuori usciti, che lo fanno di professione. Senti, come quando si arriva la notizia ciclica 2 volte l'anno che muore Fidel, certo. Ma la Cuba di oggi, quella che si sta aprendo, diciamo, rischia di tornare a essere quella di prima della rivoluzione, cioè in qualche modo il casinò degli Stati Uniti? Questo lo sento dire da 50 anni. Beh, però adesso sta capitando qualcosa di diverso. Non sarà così. Ricordati no. che quello che la rivoluzione ha fatto tanti errori, però una cosa l'ha fatta, ha dato un senso e un orgoglio al popolo. Il quale ha anche incominciato a valutare positivamente tutte le conquiste sociali che un essere umano ha a Cuba. Perché se tu hai certo, la sanità, per esempio, la casa, la sanità, la cultura, lo sport, se tu tutte queste cose le hai risolte, le hai conquistate definitivamente, diciamo, in qualche modo, sì. Cioè, non ci rinunceranno mai. E quindi il freno potrà venire dalla stessa gente a andare al consumismo più sfrenato, estremo. No, perché poi, nell'est europeo è un po' andata così, insomma, penso alla Polonia. Qui è diverso, ricordati anche che l'America Latina è stata sterminata dalle dittature militari, quindi loro sanno anche. Ma si tratta di una transizione in qualche modo un po' in stile cinese, cioè dal comunismo al capitalismo, ma con un partito centralizzato che gestisce? Sì, hai fatto la fotografia esatta di quello che secondo me, per quello che capisco, è la realtà attuale. Cuba è stato ed è un laboratorio politico anche, è quello che molte volte non si è capito in Occidente. Cuba ospitava continuamente capi di Stato e premier latinoamericani quando andavano o venivano dall'ONU o da altri summit continentali. Cioè c'è un rapporto fra Cuba e il resto dell'America Latina, questo dici, no? Che poi è quello che scrivi nella tua rivista, sì. Sì, c'è un rapporto ed è per questo che non vedo così definitivo il fatto che Cuba si butti nel mercato più estremo. Ecco, però le previsioni di export, dice oggi la Repubblica, degli export statunitensi, passeranno da 400 milioni a 4 miliardi di dollari. Questo però certamente cambierà il volto dell'isola. Cambierà. Però non come si augurano a Miami, infatti sono negativi sulla decisione. Vabbè, di Obama. Miami sono soltanto i fuoriusciti, diciamo, poi c'è il resto del mondo. Sono due senatori anche. Sì, certo. Senti, ma si può considerare comunque, in ogni caso, una sconfitta di Fidel, questo ritorno nelle braccia americane, no? Una scelta realistica, ma insomma, però non è una grande vittoria dopo 60 anni. Io penso che la sconfitta è quella degli Stati Uniti. Cioè in che senso? Cuba ha ottenuto con questo ritorno a un rapporto tutto quello che voleva, a cominciare dai famosi, quelli che chiamano loro i cinque eroi, che hanno smascherato il terrorismo che veniva preparato a Miami e messo in atto a Cuba, e che nell'arco di 30 anni, 40 anni, ha procurato più di 3.000 morti. Però non si può negare che sia una resa della rivoluzione, cioè voglio dire, vince il capitalismo, non è che vince il socialismo. No, chiedo a te che sei esperto. Non è che vince il capitalismo, per ora c'è il socialismo. No, ma dico, sto parlando di quello che, ti ho dato i numeri degli investimenti, quelli si portano dietro una cultura, non è che sono neutri. Cuba è il primo paese che ha una cultura propria ed è al contrario di molte nazioni, che anche delle nazioni dell'est che si sono trovate da un giorno all'altro con una realtà diversa. Credo che noi abbiamo detto tante cose in 50 anni su Cuba, e alla fine il comunismo è morto, il capitalismo pure, e Cuba è ancora lì. Evidentemente tutte le nostre analisi non erano così centrate su quello che sarebbe successo. È ancora lì, ma fa un accordo, insomma. Senti, vabbè, diciamo che diciamo che in qualche modo si contamineranno a vicenda, come minimo. La contaminazione cubana già esiste in America Latina, ci sono dieci nazioni che hanno governi di sinistra o di centrosinistra. Senti Mario, vuoi fare una domanda? Mario Secchi. Sì, buongiorno. Ciao. Allora, la rivoluzione non ha perso, ma il capitalismo ha vinto. Beh, questo... se volete vederla così, vedetela così. Una domanda. Chiedo. Abbia vinto. Pietrangelo, sì. Buttafuoco, una domanda. Buongiorno. L'evoluzione del Partito Comunista Cinese è chiara a tutti, ma qual è stata l'evoluzione quindi a Cuba del Partito della Rivoluzione o del Comunismo? O insomma, cercare di capire che in fondo c'è anche un'altra possibilità, e cioè che il socialismo di Obama forse è molto più affascinante di quel che resta. Questo credo che è qualcosa che in molti pensano e si augurano. Bisognerà vedere. Ripeto, ricordatevi che in questo momento gli Stati Uniti hanno fatto questo passo perché avevano perso l'America Latina. L'obiettivo prossimo, primo, è riavvicinarsi all'America Latina, lo ha detto anche Obama. Certo. E quindi porta è Cuba. È Cuba. Cuba è la porta dell'America Latina, e quello è un passaggio obbligato. In questo senso è quello che dici tu, che si trova raccontato bene nel numero, in questo numero della tua rivista, della tua rivista America. Latino America, che ha analisi approfonditissime proprio su questo tema sempre. Grazie Gianni. Grazie, grazie a voi e un saluto a tutti gli amici in studio. Grazie. 800 24 00 24, il numero verde 349 238 6666 per gli sms. Papà, torna a casa. La mamma non ci riconosce. Non riconosce neanche te. Non ce la farà a capire, mai. C'è il mio amore qui. Non posso lasciarlo. Vostra madre è la mia casa. Come ci si sente davvero? Non è sempre lo stesso. Ho dei giorni buoni e dei giorni brutti. Nei miei giorni buoni mi sento come una persona normale. In quelli brutti mi sento come se non riuscissi a ritrovare me stessa. Certe volte ho la sensazione di vedere le parole che galleggiano davanti a me e non riesco a raggiungerle, così mi perdo, non so chi sono e cosa perderò ancora. I farmaci non hanno più l'effetto che hanno avuto fino adesso. Dice che prima o poi diventerà aggressivo. Non vedo niente di anormale nella risonanza magnetica, ma quello che mi preoccupa sono i test per la memoria che le ho fatto fare. Ha degli sporadici peggioramenti delle prestazioni che sono assolutamente sproporzionati e ci sono evidenze di un declino nel livello delle sue funzioni mentali. Voglio vedere se i risultati sono compatibili con il morbo di Alzheimer. Che cosa succederà dopo? Quando non riuscirò proprio a ricordare più niente. Laura Bonanni, ricercatrice in neurologia all'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti, Pescara. Ecco, dottoressa Bonanni, qual è l'incidenza della demenza nella nostra popolazione? Ma la demenza è diventata praticamente un'emergenza nei paesi con economia avanzata. Si stima che nel 2020 il numero di casi di persone affette con demenza saranno circa 48 milioni. Attualmente si stimano intorno ai 35 milioni. Ma sono patologie che riguardano solo l'età avanzata? Non solo l'età avanzata, come spesso si crede, perché in realtà ci sono alcune forme di demenza, in particolare le demenze frontotemporali, cioè? Che coinvolgono, sono patologie che hanno precocemente dei disturbi del comportamento e del linguaggio, che coinvolgono persone di 50-60 anni, quindi nel pieno della loro attività lavorativa. Ma quanti tipi di demenze esistono, diciamo? Esistono diversi tipi di demenze, la malattia di Alzheimer è quella più prevalente, quella che conosciamo un po' tutti, però rappresenta circa il 50-60% di tutte le demenze neurodegenerative, il che significa che un altro 48-50% di demenze è costituito da altre patologie, ad esempio la demenza con corpi di Lewy, cioè una demenza associata a sintomi parkinsoniani, o la demenza frontotemporale. Ecco, ma quali sono i sintomi, per capirlo semplicemente? I sintomi della malattia di Alzheimer precocemente sono sintomi che riguardano la memoria, quindi una perdita della memoria a breve termine, mentre i sintomi di altri tipi di demenze, come la demenza a corpi di Lewy, riguardano soprattutto un deficit delle funzioni esecutive, quindi una difficoltà a svolgere attività complesse per disfunzione del lobo frontale. Ma perde la memoria di cosa? Si perde la memoria di ciò che avviene, che è avvenuto da poco tempo, quindi memoria a breve termine. Sono pazienti che non ricordano cosa hanno mangiato il giorno prima, spesso si perdono, non ricordano la strada di casa, quindi c'è un disorientamento spazio-temporale. Perché è importante distinguere fra queste forme di demenza? Perché cambiano le cure? Esatto, cambiano le cure, in particolare le demenze associate a parkinsonismo non possono essere trattate con farmaci neurolettici tipici, perché sviluppano dei gravi effetti collaterali motori che in alcuni casi possono essere anche letali. E allora le cure quali sono? Le cure devono essere diciamo precise a seconda del tipo di diagnosi che si ha, sono purtroppo attualmente soltanto cure sintomatiche che quindi non modificano la progressione della malattia, che è inesorabilmente in maniera lineare progressiva. Cioè cosa ne fanno? Ne attenuano le manifestazioni? Attenuano le manifestazioni cliniche, quindi si possono usare i neurolettici atipici di nuova generazione nei soggetti che presentano sintomi di parkinsonizzazione. Parkinson qual è? Come si manifesta? Si manifesta con una lentezza dei movimenti, una difficoltà nello svolgimento dei movimenti fini, sono pazienti che si piegano in avanti, che cadono spesso e che presentano durante la notte, durante il sonno, un disturbo del comportamento durante il sonno REM. sono pazienti che agiscono i propri sogni, quindi anziché essere immobili durante il sonno REM, sono pazienti che si agitano, che spesso possono avere dei sogni angoscianti, angosciosi o di aggressione. Dal punto di vista della ricerca ci sono dei progressi? Ci sono dei progressi nel senso che si sta tentando di mettere in atto delle terapie che sconvolgano il processo neuropatologico o fisiopatogenetico di queste malattie, si cerca di evitare l'accumulo di quelle proteine che sono responsabili dello sviluppo dei sintomi delle demenze. Cioè, quali sono quelle proteine? Le proteine sono la proteina beta-amiloide e la proteina tau, sono tipiche delle malattie che si accumulano nel cervello dei pazienti affetti da malattia di Alzheimer o da demenza frontotemporale, in particolare all'interno dei neuroni, vicino alle sinapsi, quindi nelle connessioni tra i vari neuroni, e all'esterno dei neuroni stessi. Si formano delle vere e proprie placche di beta-amiloide. Senta. Mentre nelle patologie associate a parkinsonismo sono più presenti degli accumuli di un'altra proteina che si chiama alfa-sinucleina, che costituisce i cosiddetti corpi di Levi. Lei è stata un cervello in fuga, dottoressa Bonanni, negli Stati Uniti. Perché è tornata? Sono tornata perché secondo me è importante portare l'expertise anche all'interno del paese in cui si è cresciuti, in cui si è nati. Io sono molto legata anche dal punto di vista non solo affettivo ma anche professionale all'università in cui mi sono formata, che è l'Università di Chieti. Ho fatto tutto il mio percorso nell'Università di Chieti, per cui attualmente anche grazie un pochettino alla globalizzazione e alla vicinanza, anche se non fisica, tra i vari centri di ricerca, è possibile fare buona ricerca anche in Italia. 800 24 0024 numero verde, 349 238 6666 l'SMS. Lorenzo Radice ha la madre malata di Alzheimer. Quanti anni ha sua madre? Attualmente ha 77 anni. E a quanti anni si è ammalata? Se n'è accorta mia mamma quando aveva appena compiuto 70 anni. Lei se n'è accorta o voi? È stata lei, era già andata a parlare col nostro medico di base, il quale aveva in una prima fase cercato di ammorbidire quelle che potessero essere le possibili problematiche, certo, di memoria che lei aveva. Visto che dei semplici integratori che gli aveva dato non le avevano dato nessun tipo di riscontro, un giorno prese da parte me e mia sorella e in maniera molto forte ci chiese di darle una mano, motivandola soprattutto sul fatto che non riusciva più a fare le parole crociate. Fino a quanto è stata autosufficiente? Da quel momento sono passati circa 4 anni in cui lei è riuscita comunque a gestire in quasi totale autonomia tutte le funzioni più importanti. Poi ci sono state una serie di problematiche, di eventi negativi che sono successi nella nostra famiglia. Cioè lutti, dolori, sì. Esattamente. Nella fattispecie, l'esempio più importante per far capire come i dolori possano incidono, creare dei traumi, sì, cerebrali, si incidono moltissimo, è proprio dovuto al fatto che il 9 gennaio del 2012 è mancata sua sorella. Lei prima di Natale del 2011 era ancora in grado di farsi da mangiare, di fare il letto. E questo dolore invece l'ha stroncata? L'ha stroncata totalmente, al punto che dal 15 di gennaio sono stato costretto ad affiancarle una persona a tempo pieno. Perché non era più in grado. E avete deciso di assisterla così voi? Sì, la decisione è stata presa proprio perché quello che io ho compreso in tutti questi anni di malattia, tanto è vero che io sono anche rientrato a vivere in casa con lei per darle l'affetto. Per aiutarla. L'amore è fondamentalmente l'elemento che può aiutare le persone malate d'Alzheimer più di qualsiasi altra cosa. Cioè un ambiente familiare caldo e una terapia. È una grandissima terapia, dottor Minoli, perché? Perché fondamentalmente la propria casa è quella che lei ha costruito, quella in cui è vissuta tutta la vita e quella dove ha ancora la forza di trovare qualche aggancio per rimanere connessa con il mondo attuale. Spostarla dai propri riferimenti più importanti diventa un elemento che le toglie ancora di più quei pochi rimasugli di... E lei è andata a vivere, ha preso la mamma in casa? Eh? No, sono tornato nella casa originaria dove sono nato e che gestiva mia mamma. E quello che la fa star peggio, sua madre, sono appunto invece i traumi emotivi? Sì, guardi, fondamentalmente probabilmente tutto è nato nel momento in cui è morto mio papà 17 anni fa. Mia mamma ha avuto un forte dolore, una forte depressione per questo lutto, e ovviamente in quella prima fase non ci siamo accorti di quanto questo potesse incidere sulla sua salute. Nonostante questo, mia mamma è una persona piena di forze e di attività. Ma adesso la sua condizione di vita qual è, quella di sua madre? La condizione di mia mamma è la condizione di una persona che non è in grado di fare nulla se non aiutata da qualcuno. Perché la memoria ha perso completamente coscienza di sé? La memoria ha perso quasi totalmente gli ultimi legami con Ma la riconosce? La riconosce? Riconosce il viso, riconosce che sono una persona che le vuole bene, riconosce che probabilmente a volte sono suo figlio, probabilmente a volte sono suo fratello, probabilmente a volte sono suo marito, però di fatto la cosa importante è che perlomeno riesce ancora a riconoscere una persona che le vuole bene e a cui lei non ha problema a lasciarsi andare. Ma lei da figlio oggi cosa si augura per sua madre? Guardi, è una domanda veramente molto difficile. Sì, lo so. Io sono una persona credente, una persona che tutto sommato ha sempre trovato nella fede un aggancio per cercare di giustificare certe cose. La malattia di Alzheimer è una malattia che veramente ha pochissime spiegazioni, no? Tant'è certo. Vero che anche i medicinali che vengono dati per cercare di alleviare o di ritardare questo tipo di malattie sono gli stessi da in alcuni casi anche da più di 20 anni, visto che siamo arrivati ad dare i farmaci generici. Certo. Sicuramente io quello che spero per mia mamma è che continui ad avere questo approccio molto dolce che è dettato dall'affetto che lei riesce ancora a ricevere. Io tra l'altro faccio parte anche del Consiglio di Alzheimer Italia, quindi ho avuto modo di confrontarmi in molti casi. Spesso le persone malate di Alzheimer diventano aggressive. Io ho la fortuna che mia mamma non ha mai in 7 anni dimostrato un momento di aggressività e credo che la medicina migliore che siamo riusciti a trasferirle, io, mia sorella, i miei nipotini e tutte le persone care che le stiamo attorno, sia veramente questo amore, questo affetto, che la ovattano ancora di più nel mondo nuovo in cui lei si è venuta a trovare. Ecco, grazie. Nadia ci scrive: qual è il primo sintomo della demenza? Beh, in qualche modo la risposta l'abbiamo avuto con questa testimonianza. La perdita della memoria a breve sicuramente è un sintomo. Mix 24. È come il giorno che cammina, come la notte che si avvicina, come due occhi che stanno a guardare da dietro una tenda e non si fanno notare. È come un albero nel deserto, come un trucco non ancora scoperto, come una cosa che era meglio non fare, come il cadavere di una stella sulla schiuma del mare. E è fulmine, grandine, polvere, siccità, acqua che rompe l'argine e lascia una riga nera al primo piano di una città. Allora, Pietrangelo, c'è di passione? Appunto, la bella giornata di sole, tutta una giornata di luce, un giorno che cammina come due occhi dietro una tenda per guardare senza farsi notare. Ed era la città in primo piano oggi in metropolitana, e il convoglio col suo carico di anime disposte al sorriso per via dell'inizio, il convoglio, dicevo, muoveva la coda e la testa col suo manovratore guardava come per dare un'occhiata al futuro. Tutta una musica di pienezza oggi in metropolitana con Francesco De Gregori, Cose, che è oltretutto colonna sonora di Se Dio vuole. E vedere tutte queste cose passare sono le cose che ci costringono alla pienezza della luce. Come una terra che diventa straniera, come un mattino che diventa sera. Ci scrivono sempre più persone che vogliono viaggiare anche loro su questa metropolitana, dove capita di tutto. Facciano, stacca il biglietto. Meraviglia, eh? Fa una pubblicità pazzesca, Marino è contento. Vai con le bolle. Vai, grande, vai, vai. Bello, questi sono di chic, lo sai. Senti. No, non lo sapevo, ma adesso lo so. Senti, senti. Ah, oh, questo è l'ultimo brano, è appena uscito qualche giorno fa, I'll Be There, per dire cosa? Beh, che, insomma, siamo qui e i rendimenti dei titoli di Stato sono praticamente, come si dice, near zero, cioè vicini allo zero, e perfino il Bund, vabbè, è anche logico in effetti, ci siamo quasi, è solo una questione di qualche settimana, secondo alcuni analisti, e arriva a zero anche lui. Zero. È l'effetto ovviamente del programma di acquisti della BCE, 60 miliardi al mese, è in piedi da 2 mesi ormai, e questo significa che avremo anche probabilmente qualche tasso negativo, e però c'è anche un rovescio della medaglia, cioè gli investitori cercheranno di fare profitti altrove, è evidente. Qualcuno conservativo dirà no, investo in una cosa che comunque è sicura e garantita dallo Stato. E se no azioni? E se no azioni, obbligazioni, investimenti vari a rischio, materie prime, c'è di tutto. Però quando finirà l'intervento della BCE, e vedrete che non durerà a lunghissimo secondo me, e insomma ci sarà un rialzo dei tassi, intanto ci sarà un rialzo dei tassi negli Stati Uniti, lo scenario cambierà anche in Europa prima o poi, il tempo per passa noi veloce. Cosa significa? Ora bene, perché, beh, ora certo, ora bene, perché con 2 trilioni di debito capisci subito che fai un risparmio, la previsione da 0,6 a 0,8, fai un risparmio di un paio di miliardi abbastanza in fretta, però quanto dura? E segnalo tra l'altro che stamattina è uscito un dato un po' preoccupante, non una cosa da allarme rosso, però insomma l'export cinese è sceso del 15% e a marzo, gli analisti si aspettavano il 12%, è il calo più forte dal 2009, sai, se si fermano i cinesi. Senti, ma tu degli analisti che ci prendono li conosci? Perché io non sono riuscito a conoscere. Non hanno mai preso una cifra negli ultimi 10 anni sulla crescita italiana. Su niente. Ma la crescita italiana è particolare. Il Fondo Monetario ha sbagliato tutte le stime o quasi o gli scenari degli ultimi anni. Vabbè. Non so, quindi, sai, l'economia è una scienza triste. Sì, però anche inesatta. Senza Salamino. Anche peggio. Salamino. Sono le nonne a determinare il destino, i destini della politica, a maggior ragione. Allora, Hillary Clinton scende in campo negli Stati Uniti, Adriana Poli Bortone è in marcia verso la conquista del tavoliere di tutte le Puglie. Nel 2016 l'America avrà il suo presidente donna, e così oggi il centrodestra salentino ha il candidato donna, e donna è nonna, perché così ha voluto sottolineare la Clinton mostrando la foto col fantolino in braccio e il suo ingombrante marito, l'ex presidente, nel ruolo di saggio nonnino. E nonna è anche Adriana, che nelle prime interviste ha spiegato il proprio ruolo: o mi fanno lavorare oppure me ne ritorno a ciò che più mi piace, fare la nonna di 2 meravigliose nipoti. La nonnitudine è la fase senile più che della vita sociale della politica, e lasciando nel fasto dell'impero la Clinton, restando quindi a una dimensione a noi più vicina, la parabola del centrodestra massacrato dalle faide non poteva che concludersi che come un regolamento di conti tra pantere grigie. Non sembra mica un nonno, come sottolinea la canzone, non sembra un nonno perché insomma è un Superman di nonno, e il più nonno di tutti è Silvio Berlusconi, che a 78 anni rivendica il diritto di non occuparmi di quegli ingrati che mi circondano, e quindi 2 sono le strade, o il ritiro o il rilancio. Ha 1 mese di tempo, dal 1° maggio al 1° giugno, lasciare o raddoppiare, 30 giorni per il grande rientro, 30 giorni per mettere alla porta il nipote ingrato, il nipotino Raffaele Fitto, che di un'unica Forza Italia ne ha fatte 2. E siccome quando si svuotano i patrimoni vanno in 1000 rivoli, e quindi ci sono sempre questi disastri di eredità, e quindi questi pranzi, queste tagliatelle, questo apparecchiarsi intorno alla tavola del nonno sorridente, io posso fare una proposta. Una volta si cantava Forza Italia, adesso un nuovo inno per Berlusconi, firmato da Tiziano Ferro. Mia nonna dice chi cerca troppa, ma chi non troppa, cerca troppa forza di cercare cade giù. Il buon buono, è buono. Perché non? Vabbè. Hai capito, no? Allora, Sara, che cosa ci racconti oggi, stamattina? Si deve sentire un po' così. Molto strano l'ultimo esemplare maschio di una sottospecie di rinoceronte bianco rimasto sulla terra. Ci sono ancora due femmine, ma se i bracconieri uccideranno Sudan, l'ultimo maschio, non ci saranno più speranze. Vive in Kenya ed è sorvegliato a vista 24 ore su 24 da guardie armate. Tutti gli altri rinoceronti come lui sono stati sterminati dai bracconieri. Immagino che tanti penseranno che non gliene può fregare di meno di rinoceronti, elefanti o tigri, e invece dovremmo preoccuparci tutti, perché il bracconaggio alimenta il mercato nero e finanzia gruppi terroristici, come nel caso del Kenya, Al-Shabaab, che abbiamo capito che tanto bene non fa. Edizione straordinaria! Edizione straordinaria! È un'edizione straordinaria quando l'informazione fa bene il suo dovere e la politica reagisce immediatamente. È capitato ieri, l'altro ieri, e ne voglio parlare perché è un bene che Renzi sia intervenuto dopo la denuncia del Sole 24 Ore, dando l'indicazione di cancellare la norma truffa sull'aggravio dei contributi per dare copertura finanziaria alla decontribuzione. Un assurdo che si fa fatica anche a raccontare, ma che è capitato. Cioè, l'informazione ha controllato, la politica ha reagito, è un riconoscimento alla qualità dell'informazione. Adesso le 24 ore in questo caso sono state prese a forchettate ed è nata una nuova rubrica, mi manda forché. Viabilità. Mix 24. Dove ci porta questa musica? Goodbye. Ah. Questi sono Louis Fancy. Allora, è molto carina, eh? Sì, bella. Dove vi voglio portare? Ai conti, perché oggi l'Istat darà i dati della produzione industriale, quindi è un dato importante, non è solo una questione di zero virgola, ma di futuro dell'industria italiana nel mondo. Venerdì, lo ricordo, è stato diffuso il DEF nella sua versione finale, ne avevamo anticipato una versione, per così dire, qui in progress, e insomma slide, linee guida, tutto quello che volete, io sono molto, come dire, ricettivo, osservo, però alla fine la tabella della verità è a pagina 32 del DEF. Lo seguiremo. Cosa volete che vi dica? 43,5% di pressione fiscale nel 2014, 43% nel 2015, 44,1%, 44,1%, 44%, 43,5%. Aumenta e lo dicono loro. Salamino! È un po' più in giù, voleva volare l'Uselli d'Acomare. È un po' più in giù, voleva volare l'Uselli d'Acomare. Sempre più solitario il passero. Spariscono i passeri dalle nostre primavere, così come dai nostri tetti. Sono a rischio estinzione, quasi uccisi da rapaci, dai batteri, dalla mancanza di nutrimento. E non ci sono più nidi da scovare, nidi da andare a cercare. Le nostre albe sono diventate silenziose, e tutto quel silenzio graffia in petto come un presagio. Gli dei se ne sono andati, e così, leggendo un bellissimo pezzo di Meletti oggi sulla Repubblica, si scopre che tutta la colonna sonora del nostro respiro, le cince allegre, le capinere, i fringuelli, gli usignoli, i cardellini, sono andati via e sono rimasti soltanto i versi striduli delle gazze e delle cornacchie. E allora, in omaggio al passero, vi vorrei far sentire l'accenno di quello che resta comunque eterno come voce di pura poesia. Di sulla vetta della torre antica, passero solitario, alla campagna cantando vai finché non muore il giorno. Minori la recita, vai. E darà l'armonia per questa valle. Primavera d'intorno brilla nell'aria. E per i campi. E allora Alessandra Fiori oggi col suo lunedì libro. Mente e cervello sono la stessa cosa? Come posso pensare al mio cervello se è il mio cervello che pensa? Di cosa allora possiamo fidarci? A farsi queste e molte altre domande è Andrew, scienziato cognitivo, protagonista dell'ultimo romanzo di E.L. Doctorow, La coscienza di Andrew. In un continuo alternarsi tra flusso di coscienza e racconto in terza persona, Andrew attraversa amori, errori e tragedie della sua vita. La donna amatissima persa durante gli attentati dell'11 settembre, l'ex moglie Martha, una bambina morta e un'altra da crescere senza la capacità di farlo. Perché Andrew è un inetto, capace di assumersi la responsabilità della morte di sua figlia, negandosi però quella di provare sensi di colpa. Si racconta Andrew, il pericolo pubblico, l'insensibile. Si racconta un dottore, psicoanalista senza nome, che interviene cercando di arginare il disordinato fluire del suo pensiero. Un caos sempre in bilico tra voci ascoltate e voci immaginate. Ma quanto è labile il confine tra sogno e realtà? Poi ci sono tutte le volte che muori dalla voglia che sia un sogno. E il cervello è la fonte della mente, dell'anima, di cosa? Quanto è affidabile la nostra memoria? Seguendo il viaggio nei meandri della mente di Andrew, ponendosi con lui certe domande troppo a lungo, si diventa sempre più incerti. Perché, oggigiorno, non ci si può fidare di nessuno. Figuriamoci di se stessi. La coscienza di Andrew, di E.L. Doctorow, Mondadori. Vabbè. No, mi viene in mente Gordon Gekko, la grande battuta di Gordon Gekko. Quale? Se la gente è povera, furba e affamata, e se vuoi un amico, prendi un cane. L'ultima bolla, Mario. Vai. Sotto gli occhi da sempre distratti del mondo. Questo è il Grande Liga, che è il muro del suono. Non c'entra niente con la bolla che sto per però dire. Ti piace. Le lego, le bolle, vai. La musica, lo sapete. Però mi piace, sentite quanto è figo. E chi disperando, e c'è chi visse con solo un flash. Ve la ricordate la storia del sottomarino russo con la quale noi ci siamo divertiti da pazzi? Bene, il capo della marina militare svedese ha rivelato che non era un sottomarino. Ah, e cos'era? Una barca non meglio precisata. Quindi figurati, è stata imbastita. Ma avevamo avuto, diciamo, un leggero sospetto qui in studio. Una storia fuori dal mondo, completamente. Bene, storia invece del mondo è quella che ci racconta Marina Milone dopo il giornale radio. Di che cosa parli? Dopo l'incontro storico che avete commentato tra Obama e Raul Castro, avvenuto a Panama, oggi raccontiamo la rivoluzione di Fidel Castro. Dal golpe di Batista, poi lo storico sbarco sul Granma insieme a Che Guevara, fino agli ultimi discorsi pubblici del leader massimo. Bene, e allora dopo il giornale radio sentiremo la storia di Che Guevara, ma prima della pubblicità, Sapore di sale di Gino Paoli. Il tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale. Ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole.